Sport, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sappiamo che non ci sarà pace nella regione finché quella che veniva chiamata la pace dei figli di Abramo, da un grande profeta del pensiero politico in Italia, Giorgio La Pira, quella che veniva chiamata la pace di Abramo, dei figli di Abramo, non metterà finalmente fine all'irrisolto conflitto tra palestiniani e israeliani. Avete visto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, quanta creatività nella comunicazione linguistica di Matteo Renzi? Forse è una questione invece magari di sintonia tra i popoli che voleva creare, o di musicalità linguistica. I palestiniani e gli israeliani, con questo ha detto al Palazzo dell'ONU, per carità, ha detto molte altre cose importanti. Però, diciamo, questa nota dopo l'inglese un po' maccheronico dei giorni scorsi è piuttosto bizzarra e curiosa. Ma di questo parleremo, del resto, di quello che ha detto oggi all'ONU ONU, il Presidente del Consiglio Renzi. Ci sono molti altri argomenti, parleremo anche di eterologa, perché da quando la Cassazione la Corte Costituzionale l'ha resa libera in Italia, diciamo che ogni regione fino adesso cercava di capire cosa dovesse fare, si è raggiunto un accordo, tranne che per la Lombardia. Potete scrivere i vostri messaggi per le notizie che tratterò insieme agli ospiti, sia al 349-238-6666 SMS, e poi per le vostre opinioni, i vostri commenti c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Vi racconto in breve adesso intanto la giornata. Terrorismo cresce, l'allarme per possibili attentati nelle metro di New York e Parigi. L'Iran all'ONU dichiara: obiettivo dell'ISIS è distruggere la civiltà, colpa degli americani. La trattativa Stato-mafia, Napolitano dovrà testimoniare al processo. Non ho problemi, fa sapere il capo dello Stato, e al CSM dice: riforma della giustizia non rinviabile. Eterologa, i ticket nelle regioni costerà tra i 400 e i 600 euro, tranne in Lombardia dove si pagherà per intero. Lavoro, la minoranza del PD dice a Renzi: mediazione possibile, basta volerla, e la CGIL si prepara a una manifestazione insieme alla FIOM, probabilmente per il 25 ottobre. Pedofilia, linea dura del Papa, che continua, rimosso un altro vescovo, coprì abusi sessuali in Paraguay. Sentenza della Cassazione, anche per lo stupro completo è possibile la pena ridotta. Vicenza accoltella la ex Evai domiciliari a pochi passi dalla vittima, i periti dicono 16 colpi ma nessuno mortale. Giustizia, l'Italia maglia nera per i ricorsi sui diritti umani a Strasburgo. E poi il calcio, a chiudere la quarta giornata del campionato di Serie A stasera, Lazio-Udinese. Partiamo quindi dalle minacce lanciate dall'ISIS all'Occidente a più riprese, mentre continuano i raid sulla Siria, e anche dall'allarme attentati che sale soprattutto per gli Stati Uniti e Francia. Cellule dell'ISIS stanno complottando attacchi a Stati Uniti e Francia, e tra gli obiettivi ci sarebbero in particolare le stazioni della metropolitana. Questo è l'allarme lanciato dal primo ministro iracheno Abadi a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU, ONU dove ha parlato oggi anche Matteo Renzi, e per sapere com'è stato il suo intervento e diciamo i contenuti, quelli un po' più pregnanti del suo intervento, ci collegheremo tra poco con New York. Intanto, dopo la decapitazione ieri di un turista francese in Algeria da parte dell'ISIS, paura e commozione in Francia, ma non solo. Lutto nazionale, bandiere a mezz'asta per 3 giorni, ma anche l'assicurazione che si farà di tutto per trovare e punire i responsabili. La Francia reagisce così all'uccisione di Hervé Gourdel, l'ostaggio decapitato in Algeria da un gruppo vicino all'ISIS. I musulmani francesi domani scenderanno in piazza per prendere le distanze dal barbaro omicidio. Dopo le nuove minacce da parte dei gruppi jihadisti, l'Eliseo ha deciso di rafforzare le misure di prevenzione contro i rischi di attentati nei luoghi pubblici e nei trasporti. Il grado di allerta è stato innalzato anche in altri paesi europei. A Londra stamattina sono state fermate 9 persone sospettate di far parte di un gruppo legato al terrorismo islamico. L'intelligence tedesca ha invece messo in guardia dal rischio rappresentato dai circa 120 combattenti stranieri andati in Siria ed Iraq per unirsi all'ISIS e ora tornati in Germania dopo aver imparato ad utilizzare armi ed esplosivi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto in Italia in primo piano ritorna la presunta trattativa Stato-mafia. Sarà sentito anche il capo dello Stato. Alla fine ha vinto la Procura di Palermo. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano dovrà testimoniare nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia con le accortezze per un Presidente della Repubblica, ovvero al Quirinale in privato alla sola presenza di legali e procura. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Palermo. Napolitano si dice pronto, prendo atto dell'ordinanza e non ho alcuna difficoltà a rendere al più presto testimonianza. Nel pomeriggio poi il capo dello Stato incontra al Quirinale i nuovi membri del CSM e rilancia sulla riforma della giustizia. Nuove ragioni di attualità e non rinviabilità dei problemi di riforma della giustizia. Le esigenze di corretto, lineare, spedito funzionamento del sistema giudiziario sono apparse e appaiono vitali al fine di dare le certezze e le garanzie di cui è indispensabile bisogno lo sviluppo dell'attività economica e dell'occupazione. Dal Presidente giunge poi un monito. Il CSM nella sua componente togata non è assemblaggio di correnti, dannosi ed estenuanti sono i negoziati nella ricerca di compromessi e malsani bilanciamenti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi approfondiremo questo argomento del ruolo di Napolitano, di questa presunta trattativa Stato-mafia per l'appunto, poi con un quirinalista più tardi, qui a Effetto Notte. Passiamo invece al tema sempre più dibattuto in politica, sulla politica italiana, nella politica italiana, che è il Jobs Act e le modifiche all'articolo 18. Dopo la CGIL e la minoranza del PD a puntare ad una mediazione con il Presidente del Consiglio sulla riforma del lavoro, sull'articolo 18 dice allora Cuperlo, si può trovare una soluzione di buon senso con allungamento del periodo di prova e mantenimento dell'opzione del reintegro. Bersani aggiunge se Renzi vuole una sintesi, è possibile. Secondo me è anche abbastanza agevole, bisogna volerla. Alla prossima direzione del Partito Democratico guarda anche il Ministro del Lavoro Poletti, che auspica una discussione franca, poi però Poletti ribadisce noi ascoltiamo tutti, ma alla fine governo e Parlamento decidono. Dei pasticci non ne possono essere fatti, non ci si può fermare davanti a dei tabù. Noi abbiamo bisogno di dare fiducia e dare chiarezza perché ci siano investimenti. La riforma del lavoro in Italia è una priorità e se i sindacati sono contro, per me questo non è un problema, dice intanto il Presidente del Consiglio Renzi al Wall Street Journal. Contro la riforma del lavoro Beppe Grillo. L'articolo 18 non si tocca, qualcuno ci deve ancora spiegare, dice il leader 5 Stelle, come l'abolizione dell'articolo 18 possa far ripartire l'economia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto è arrivata la notizia in serata che la CGIL si prepara a una manifestazione dell'intera Confederazione per il lavoro in cui confluirà la mobilitazione già annunciata della FIOM, quella per il 18 ottobre. Tra le date per questa manifestazione complessiva, la più probabile è il prossimo 25 ottobre. E c'è la decisione delle regioni sulla fecondazione eterologa. Ci sarà una tariffa unica che costerà dai 400 ai 600 euro ovunque, tranne che in Lombardia. Poi ci faremo spiegare da un protagonista di questo accordo quali sono i termini. Intanto passiamo all'economia, con la presa di posizione netta del governo tedesco all'indirizzo di Mario Draghi, che ha annunciato nuovi interventi della Banca Centrale Europea e avvertito su rischi evidenti geopolitici e ritardi nelle riforme. Si dice contrario il governo tedesco al piano di acquisto di titoli cartolarizzati proposto dalla BCE e la frecciata è rivolta al presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ed è partita dall'alto, dal ministro delle Finanze Schäuble durante un intervento al Bundestag. In più arriva a pochi giorni dall'attesa conferenza stampa di Draghi che giovedì prossimo al termine della riunione del board a Napoli annuncerà i dettagli del piano di acquisti di titoli di ABS emessi da veicoli finanziari delle banche garantiti da mutui o da prestiti alle imprese. L'obiettivo è di liberare in questo modo i bilanci bancari per rilanciare il credito con 350 miliardi di nuovi acquisti. Ma il messaggio cade anche il giorno stesso in cui il presidente della BCE afferma di aspettarsi una crescita economica europea modesta nel secondo semestre e assicura che l'Eurotower è pronta ad agire ulteriormente se sarà necessario, adottando ulteriori misure non convenzionali contro i rischi di un periodo troppo lungo di bassa inflazione. Draghi ha infatti sottolineato sul quotidiano lituano Versio Zinios i rischi delle tensioni geopolitiche per imprese e consumatori e ha ribadito che spetta ai governi agire in modo decisivo su credito e disoccupazione con ulteriori riforme strutturali. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E parliamo anche di Telecom, nuova offerta in arrivo per Telecom Italia che domani riunirà il Consiglio di Amministrazione. Secondo le indiscrezioni essere essere interessato al gruppo. Questa volta sarebbe l'ex numero uno della compagnia telefonica australiana e di Orange. Il titolo ha chiuso sopra la parità più 0,11% a fronte di un indice in calo di oltre l'1%. Ma torniamo sulla linea dura di Papa Francesco contro la pedofilia. È stato rimosso un altro vescovo. Era accusato di malversazione e copertura di abusi sessuali commessi da preti nella sua diocesi. Per queste ragioni il Papa ha rimosso dalla diocesi Ciudad del Este in Paraguay Monsignor Rogelio Riccardo Livieres Plano, nominando al suo posto come amministratore apostolico Monsignor Jorge Valenzuela Rios. Una decisione, quella del Papa, comunicata a soli due giorni dal clamoroso arresto dell'ex nunzio a Santo Domingo, Vesolowski, e che si colloca nel solco della linea della tolleranza zero non solo nei confronti di chi ha commesso abusi, ma anche nei confronti di eventuali omissioni da parte di esponenti della Chiesa. Quanto a Vesolowski, rischia almeno 6 o 7 anni di carcere, anche se il processo non partirà prima di qualche mese. C'era il rischio che potesse fuggire o inquinare le prove, per questo il Papa ha accelerato i tempi, spingendo per il fermo. All'esame dell'ex Sant'Uffizio, inoltre, ci sarebbero altri casi di vescovi coinvolti in vicende di abusi, almeno due, che non essendo tutte via cittadini vaticani non rischiano il processo penale, ma solo quello canonico. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stata chiusa l'inchiesta sull'amianto all'Oliveti e tra gli indagati ci sono De Benedetti e Passera. La procura di Ivrea ha notificato 39 avvisi di garanzia per l'inchiesta sulle morti per amianto all'Olivetti. Fra gli indagati anche l'imprenditore Carlo De Benedetti, Corrado Passera, Roberto Colaninno e Camillo Olivetti, tutti ex amministratori delegati e consiglieri di amministrazione dell'azienda, accusati di lesioni e omicidio colposo. Le indagini si sono concentrate sulla morte di una ventina di ex dipendenti dell'azienda in pensione, che avevano lavorato in reparti contaminati da fibre di amianto e che successivamente si sono ammalati di mesotelioma. Abbiamo portato a termine un lavoro complesso che ha fatto emergere carenze nella prevenzione, ha dichiarato Giuseppe Ferrando, procuratore capo di Ivrea. In una nota del suo portavoce, Carlo De Benedetti, amministratore delegato e presidente dell'Olivetti dal 1978 al 1996, ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati, precisando che nel periodo della sua permanenza in azienda, l'Olivetti ha sempre prestato attenzione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Miriam Corgia, Radio 24, Sole 24 Ore. Parliamo adesso di giustizia, perché l'Italia è diventata il primo paese per numero di ricorsi pendenti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In totale sono 17.300, mentre a dicembre del 2013 erano 14.400. Il nostro paese era ancora al secondo posto dietro la Russia per quelli con il maggior carico di ricorsi. Dalle statistiche della Corte aggiornate al 31 agosto risulta che ben il 19,3% di tutti i casi pendenti proviene appunto dall'Italia. A proposito di giustizia, ad avviso della Cassazione, questa è una sentenza di cui si è saputo oggi, gli imputati per stupro possono ottenere l'attenuante, con relativo sconto di pena, di aver commesso un fatto di minor gravità anche nel caso di violenze carnali complete ai danni delle donne. Invece per la Corte d'Appello di Venezia lo stupro completo non è mai di minore gravità. Pensate, insomma, la nostra giustizia, a proposito di quello che si diceva prima di Strasburgo. Delle 16 coltellate che il commercialista veronese Enrico Sganzerla ha inferto all'ex fidanzata Laura Roveri, questo è un caso di cronaca di cui si è saputo pochi giorni fa, la sera del 12 aprile scorso in una discoteca di Vicenza, nessuna è risultata mortale secondo i feriti e potenzialmente tale, per questo l'uomo è stato messo ai domiciliari a pochi passi dalla sua vittima. Per chiudere, chiudiamo un po' in bellezza e in leggerezza con Giovanni Capuano, il calcio, Serie A, Giovanni, la Lazio contro l'Udinese, no? Stasera. Chiudiamo così la quarta giornata in questa lunghissima maratona che va avanti ancora per una decina di giorni, perché poi oggi si chiude ma fra 48 ore poi è di nuovo campionato e poi dopo settimana prossima c'è l'Europa e poi di nuovo campionato, insomma davvero non ci facciamo mancare nulla. Anche per questo Lazio Udinese giocano con un po' di riserve, perché tanti titolari stanno riposando e sta vincendo l'Udinese per 1-0, siamo intorno alla mezz'ora, 31esimo minuto esatto, 5 minuti fa ha segnato per l'Udinese Terò, ha fatto tra l'altro un gran bel gol, un gol aperto da Muriel e poi con l'assistenza di Widmer, Terò che è arrivato quest'anno l'Udinese ha messo dentro. Pochi istanti prima era stata la Lazio ad andare vicina al vantaggio, prima con Felipe Anderson e poi con Klose, però la regola del calcio è gol sbagliato, gol subito, e quindi al 27esimo è arrivato l'1-0 dell'Udinese, che in questo momento è nelle zone altissime della classifica, dovesse confermare questa vittoria all'Olimpico contro la Lazio. Poi se vuoi, a proposito di Roma, ti dico anche della pallavolo, perché ci sono i mondiali femminili in corso. Giusto, terza giornata, no, per l'Italia. Sì, terza giornata che sta andando come le prime due. Noi veniamo da due vittorie, tra l'altro due successi belli rotondi, 2-3-0 contro Tunisia e Croazia, e questa sera ci stiamo ripetendo. Siamo già 2-7-0, tutti e due vinti contro l'Argentina 25-17, e siamo avanti 6-5 anche nel terzo. Sempre avanti allora. Grazie Giovanni Capuano, più tardi. Adesso sentiamo la viabilità, poi ci sono sempre i vostri messaggi al 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi subito qua, ve le riracconto sinteticamente le notizie principali, poi man mano ne approfondirò varie con gli ospiti. A cominciare dall'allarme sugli attentati da parte dell'ISIS nel metro di Parigi e di New York, nel mirino identificato, che sono appunto nel mirino, identificato il boia Foley, quello che ha decapitato vari ostaggi. E poi la minoranza PD per quanto riguarda la politica italiana, che apre al dialogo sulla riforma del lavoro, la sintesi basta volerla. Renzi intanto dice il tempo delle riforme sta stringendo e dice che non ci saranno comunque elezioni, intanto la CGIL verso la manifestazione. Napolitano sarà teste al processo sulla presunta trattativa Stato-mafia, non ho problemi, dice il capo dello Stato, intanto spinge sulla riforma della giustizia. Renzi all'ONU, l'Italia ha salvato 80.000 vite nel Mediterraneo. E poi per quanto riguarda l'ISIS, dice in corso un genocidio, l'Italia sarà e resta nella coalizione. L'eterologa costerà tra i 400 e i 600 euro, è stato raggiunto un accordo tra le regioni, l'unica a rimanere fuori è la Lombardia, dove si pagherà tutto. La linea dura del Papa contro la pedofilia, ha rimosso un altro vescovo. E poi Draghi che dice la ripresa perde slancio, e la Cassazione che dice sì a una pena ridotta per stupro completo perché è possibile l'attenuante. E vedo un messaggio di un ascoltatore, Fabio, che dice vabbè palestinian, perché prima vi ho fatto sentire Renzi che all'ONU ha detto palestiniani e israeliani. Cioè, palestinian è un inglesismo, quindi anche se aveva avuto un inglese insomma diciamo poco solido qualche giorno prima, però da lì prende poi l'influenza per dire palestinian. E poi dice l'eterologa una vendetta cellina. Però Gerardo Pelosi in collegamento da New York ha detto altre cose oltre a palestinian, palestiniani, vero Gerardo? Sì, certo, assolutamente sì. Diciamo questo, che questo primo intervento di Renzi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, alla 69esima Assemblea Generale, in un clima veramente di grande tensione, di grande preoccupazione per questo terrorismo islamico targato ISIS, in realtà l'intervento di Renzi non si discosta poi di tanto da quelle che sono le tradizionali linee guida in politica estera di tutti i suoi predecessori, non soltanto Monti e Letta, ma direi anche Berlusconi. In questo primo intervento Renzi quindi si mostra fedele ai principi di un multilateralismo e dell'atlantismo, alleato fedele degli Stati Uniti, soprattutto ora che Obama chiama a raccolta le forze migliori dell'Occidente per la battaglia contro il califfato dell'ISIS, e appare come sempre equilibrato con la tradizionale posizione italiana, tanto sulle questioni del Medio Oriente, così come sulla crisi ucraina. Senti Gerardo, ti interrompo, perdonami, proprio perché facciamo sentire proprio un breve passaggio su quello che ha detto Renzi a proposito delle stragi dell'ISIS. È in corso un genocidio e noi di fronte a questa attività sappiamo che soltanto la comunità internazionale unita potrà vincere la battaglia della civiltà. Ecco perché ho detto ieri al presidente Obama che la coalizione internazionale potrà contare sul sostegno italiano per eliminare la minaccia posta dall'ISIS, e continuo a insistere sul fatto che l'impegno del nostro paese in tutte le regioni, in tutte le aree della regione sarà determinato e mi auguro determinante. Ecco Gerardo, giusto per far sentire un po' le cose che ha detto Renzi così dal vivo, poi dicevi quindi su vari fronti, questo, quello medio orientale. Quello medio orientale è poi un fronte che ci interessa direttamente e sul quale tutti i suoi predecessori di Renzi sono stati sollecitati da parte del presidente americano Obama ad avere un ruolo diciamo più attivo, e cioè la Libia. La Libia, anche ieri lo ha ripetuto il Presidente del Consiglio, è una priorità italiana. C'è da considerare che l'Italia sta dando il suo massimo sostegno all'inviato delle Nazioni Unite che si trova in Libia. L'Italia, l'ambasciata italiana è l'unica ambasciata occidentale attualmente aperta a Tripoli, con l'ambasciatore Buccino, il bravissimo ambasciatore Buccino, circondato dai carabinieri di Tuscania, che diciamo, sta lì con la bandiera italiana in una situazione di gravissimi rischi personali. L'Italia quindi farà la sua parte per la Libia, ma sottolinea Renzi il rischio di una progressiva frammentazione, e quindi questo rende difficile anche mantenere la pace e la stabilità di tutta la regione. Il Mediterraneo in questo quadro rischia di diventare un mare appunto di morti. L'Italia si presenta però a questa Assemblea Generale con un'operazione della Marina Italiana, quella di Mare Nostrum, che ha salvato 80.000 vite, ma è una operazione non più sostenibile per da sola dalla parte dell'Italia, e per infatti da novembre, e questo è già stato il risultato degli incontri del ministro interno Alfano con il commissario Malmström a Bruxelles, dal 1° novembre ci sarà il Mare Nostrum, partirà Mare Nostrum bis, plus Mare Nostrum plus, con un dispositivo navale che vede la presenza anche di navi di altri paesi europei come la Francia, la Spagna e la Germania. Che era un accordo che si aspettava da tempo, ne vedremo appunto l'efficacia. Assolutamente sì. Grazie Gerardo Pelosi da New York, grazie ancora. Ciao Gerardo. Grazie. Europa 24 notte. Spazio europeo questo, dicevamo, abbiamo sentito appunto i palestiniani da parte di Matteo Renzi, abbiamo detto questa creatività linguistica e a volte il mischiare, no? Parlava un ascoltatore di un inglesismo, ma qual è la lingua europea? Chi è più bravo anche a parlare le lingue straniere in Europa? Gigi Donelli, nostro Gigi a Firenze, perché hai seguito che cosa, Gigi? Ciao Roberta, buonasera innanzitutto. Questa, oggi e domani, due giornate dedicate proprio alle lingue, all'insegnamento delle lingue, al valore economico delle lingue. In cui noi siamo molto carenti, no? In Italia, questo si sa. Sì, non solo, dolente. Diciamolo subito. Allora, in Italia sì, siamo sicuramente fragili, con, come sempre accade nel nostro paese, una situazione abbastanza macchia di leopardo. Peraltro tu parlavi della molta ironia che viene fatta su Renzi e sul suo inglese. Questa mattina è stato inevitabile per tutti, ascoltando il sindaco di Firenze, quindi il suo successore Nardella, che invece ha tenuto uno speech in un inglese impeccabile all'apertura di queste due giornate. Però c'è anche da dire una cosa, che secondo me c'è davvero un atteggiamento ipercritico nei confronti di chi da straniero parla un'altra lingua, e questo deve valere anche per Renzi. Cioè, senti, allora, visto che ci ti butta, Renzi, non è negativo, ecco, credo. Sentiamo, no? Sentiamo come si butta, Gigi, sentiamo questo. If you are sick and you love Italian politics, you watch the TV after the elections and everybody said I'm winner. I'm not winner but arrived first. I arrived first but I'm happy for the result. Nobody loves in Italy. It's a very good strategy for a human being, but for a political institution this is impossible. Impossible, si è buttato insomma Gigi Donelli. Beh, si è buttato, però era chiaro, voglio dire, anche questo, bisogna anche intendersi su cosa servono queste lingue. Cioè, in questo caso Renzi ha trasferito un messaggio, si è fatto capire. Ecco, detto ciò, ovviamente il caso del Presidente del Consiglio è un po' particolare, ma l'atteggiamento che spesso invece tende ad affermarsi è che nel momento in cui non ci sentiamo totalmente a nostro agio non parliamo proprio, allora c'è da interrogarsi un po' su quale sia la cosa migliore. Ecco, chi sono i campioni negativi, visto che mi chiedevi? Sono proprio gli inglesi. Gli inglesi sono la nazionalità europea che conosce meglio altre lingue. Tu dirai, certo, loro parlano inglese, appunto, però soltanto l'8% degli inglesi conosce un'altra lingua. C'è anche questo aspetto paradossale. Oggi si è parlato anche di questo. Per esempio, per entrare nell'amministrazione e nella burocrazia europea è indispensabile conoscere almeno una seconda lingua. Bene, gli inglesi non riescono a entrare, ad accedere a questi posti. Sì, perché la loro forse, Gigi, è un po' supponenza, pensano di parlare già la lingua mondiale, internazionale. È la forza della lingua mondiale, giustamente. Quindi da un lato quello che poi succede a Bruxelles nella burocrazia spesso è che ci sono degli enormi team soprattutto negli uffici stampa, eccetera, eccetera, di varie nazionalità, e poi l'ultima revisione del lavoro la fa un inglese, perché è l'unico madrelingua. Ecco, questo quindi è per quanto riguarda l'Unione Europea, che, non dimentichiamolo, ha 28 stati e 24 lingue nazionali, quindi una complessità enorme. L'Italia ha fatto grossi passi in avanti. È chiaro che parte da una posizione di grande fragilità. Molto importante in questo senso, se ne è parlato oggi, è l'insegnamento delle materie in una lingua straniera, quindi il cosiddetto CLIL, che è questo meccanismo per cui non si insegna più solamente l'inglese come inglese o il francese come francese, ma si insegna la storia piuttosto che le scienze in francese e in inglese. Ecco, pensate che è un progetto che la Spagna ha avviato nel 1996 con delle scuole pilota, erano oltre 1000 studenti. Ecco, noi ci siamo arrivati molto dopo, però sicuramente questo è una svolta, forse epocale, perché di fatto accompagna lo studente per tutta la sua vita e lo abitua a parlare e a capire in una lingua, anche se non è perfetto, perché lo scopo, almeno nella grande maggior parte di noi, è quello di potersi esprimere e magari di accedere a dei lavori. Questo è particolarmente delicato per chi parla delle lingue che, diciamo, non sono diffuse, e noi italiani siamo un perfetto esempio in questo senso. E dunque tu, Gigi Donelli, do you speak European? Ci provo, sì, anzi lo facciamo in questi programmi e cerchiamo effettivamente, anche se magari non parliamo perfettamente nessuna delle 24 lingue, di farle condividere e di raccontarle. Beh, non fare il modesto, che tu sei anche russo. Va bene, Gigi Donelli, sì, il russo, peraltro, Roberta, visto che l'hai citato, lo sai che è la lingua più parlata nello spazio europeo? No. Anche questo è paradossale. Paradossale. Non ci pensiamo mai, sono 118 milioni di persone che parlano russo, più tutto quel mondo dell'est che una volta aveva il russo obbligatorio, adesso sta cambiando anche quello. Allora, Gigi Donelli, salutaci in russo. Bene, da Zaftra e Zio Karasho. Ciao. Non posso valutare, non lo conosco, ma mi sembra che suoni bene. Grazie, Gigi Donelli. Ciao. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E a proposito invece dei vostri messaggi, prima di lasciarvi per questa pausa, vedo un sms al 349-238-6666 di Daniele da Viareggio che dice: buonasera, ma il trasferimento del comandante De Falco, Gregorio De Falco, vi ricordate il comandante che durante il naufragio provocato da Schettino al telefono lo seguiva e disse risalga a bordo, insomma, è stato trasferito dal suo ufficio, lui parla di mobbing, se volete anche commentare questa notizia sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia per gli sms. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi qui, Roberta Giordano, sempre con voi, con tutte le sere dalle 21 alle 22. Vi riepilogo la giornata, poi mi soffermo su una notizia in particolare e poi passiamo a un'altra. E iniziamo dal terrorismo. Cresce l'allarme per i possibili attentati nei metro di New York e Parigi. L'Iran all'ONU dichiara: obiettivo dell'ISIS è distruggere la civiltà, è una reazione contro, dice, soprattutto le colpe degli Stati Uniti. La trattativa Stato-mafia, Napolitano dovrà testimoniare al processo. Non ho problemi, fa sapere il capo dello Stato, e al CSM dice: la riforma della giustizia non è rinviabile. Eterologa, il ticket nelle regioni costerà tra i 400 e i 600 euro, tranne in Lombardia dove si pagherà per intero. Lavoro la minoranza del PD, dice Renzi, che è una mediazione possibile. Intanto la CGIL annuncia una possibile manifestazione per il prossimo 25 ottobre. E poi Vicenza, accoltella la ex e va ai domiciliari a pochi passi dalla vittima. I periti dicono 16 colpi, ma nessuno mortale. Giustizia, l'Italia maglia nera per i rimborsi sui diritti umani a Strasburgo. Per il calcio, la quarta di Serie A, Lazio-Udinese, per il momento è l'Udinese che conduce per 1-0. E poi l'altra notizia di oggi, di stasera, la sentenza della Cassazione: anche per lo stupro completo è possibile una pena ridotta. C'è un ascoltatore al 349-238-6666, si chiama Cristiano, Gianfranco, perdon, da Altamura, che dice: prendete posizione voi giornaliste contro la barbara sentenza della Cassazione sullo stupro. È senz'altro barbara, non manco mai di prendere posizione, anche su Twitter poco fa ho scritto @Roby_Giordano, cioè Linetta Bassa Giordano, che comunque insomma una giustizia nostra di questo tipo con queste sentenze ha lei ben poche attenuanti in realtà. E un altro ascoltatore, Giorgio, chiedeva che cosa significa questa sentenza, non ho ben capito. Bene, si possono commettere, leggo qui la spiegazione, numerosi stupri portati a totale compimento con la sopraffazione fisica della donna e della sua dignità e nonostante ciò vedersi concessa l'attenuante di aver commesso un reato di non troppo rilievo per il quale si può ottenere la riduzione della pena, e quanto sostiene la Cassazione, che si è espressa poi in disaccordo con un verdetto invece di un tribunale. Questa è la sostanza. E passiamo a un altro tema delicato. Parliamo di Eterologa, la fecondazione eterologa assistita, che costerà tra i 400 e i 600 euro. Lo ha chiarito il presidente della conferenza delle regioni, Sergio Chiamparino, al termine di una riunione a Roma. È stata definita quindi una tariffa unica che potrebbe variare tra i 400 e i 600, questo ticket, proprio in base alle varie prestazioni necessarie per effettuare la fecondazione, no? Che decidono le singole regioni, quindi esami del sangue, ecografie, eccetera. Fatta eccezione della Lombardia, che ha un orientamento diverso e ha ritenuto di far pagare interamente il costo. Tutto questo dopo che la Corte Costituzionale, vi ricordate, l'aprile scorso mi pare, aveva dichiarato incostituzionale la legge 40, soprattutto lì dove vietava che si potesse ricorrere alla fecondazione eterologa, cioè con la fecondazione con l'aiuto di o spermatozoi o ovociti presi da donatori esterni, da donatrici esterne, insomma. Allora, c'è qui, ha dato la sua disponibilità Sergio Chiamparino, che ringrazio e saluto. Buonasera, Presidente. Buonasera. Che è Presidente della Regione Piemonte e Presidente appunto della Conferenza delle Regioni. Quindi oggi a Roma avete trovato questo accordo, Chiamparino. Sì, guardi, se mi permette, volevo proprio approfittare per... ho sentito la notizia di prima. Della Cassazione. Speravo che lei commentasse. Esterefatto, perché è chiaro che quello riflette una cultura, no? Perché poi questo è... e non ci si può poi stupire se... al mattino, aprendo i giornali, ormai quotidianamente si scopre di qualcuno che ammazzato, fa violenza fino alle estreme conseguenze alla moglie, all'amante, alla fidanzata o anche solo uno che incontra per strada. Non dico che è la colpa della sentenza, però certo quella sentenza riflette una cultura, certo, che è troppo diffusa, e forse le sentenze dovrebbero anche essere un po' pedagogiche, almeno in campi di questo genere. È stupefacente, sono esterrefatto. Chiuso questo, dico sì, abbiamo sull'eterologa, abbiamo trovato un accordo che peraltro era abbastanza scontato, perché era già tutto definito con quando abbiamo trovato l'accordo sulle linee guida all'inizio di settembre. Mancava la questione, diciamo, della compartecipazione, del ticket, insomma, che per precisare a quelle cifre che lei correttamente diceva si arriva sommando i ticket che già vengono pagati per le analisi che sono necessarie nelle diverse regioni per accedere a questa, diciamo, a questa prestazione, che è quella della fecondazione medicale assistita di tipo eterologo. Quindi in realtà la differenza dipende da questo, ecco, laddove si paga meno ticket per fare quelle analisi si paga un po' meno, ma siamo in quella fascia, in quell'ordine, in quella fascia lì, che mi sembra una fascia ragionevole per una prestazione che invece ha un costo, ovviamente una prestazione sanitaria che ha un costo molto più ampio, diciamo che quella cifra rappresenta circa il 10%, se a naso, cioè a spanne, ma una spanna abbastanza rigorosa. Governatore Chiamparino, che poi non ho mai capito se volete essere chiamati governatore o presidente. Presidente, se mi fa una meglio, cortesia, anch'io. Mi chiama presidente. No, preferisco. Non siamo in America. Appunto, anch'io lo trovo molto americano questo modo. Presidente Chiamparino, ma quindi chi pagherà il resto delle spese? Nel senso, rientra nel Fondo Sanitario Nazionale. Quindi non è a carico delle regioni? È a carico delle regioni o no? Poi? No, delle regioni, ma sa, il Fondo Sanitario Nazionale, il Fondo Sanitario è ripartito nelle regioni, quindi è la stessa cosa, è a carico del servizio pubblico. Noi adesso, diciamo, lo consideriamo nei livelli essenziali di assistenza, quindi a carico del sistema sanitario. Speriamo che il governo a fine anno deve ridefinire quali sono questi livelli essenziali di assistenza, cioè quali sono le prestazioni che rientrano nel servizio sanitario pubblico. Ci auguriamo che inserisca anche formalmente la prestazione eterologa, perché così almeno avremo anche la copertura. Ma voi quindi partite direttamente senza essere sicuri della copertura, Chiamparino? Ma sai, i costi adesso ho detto per una ragione molto semplice, perché non c'è tanta differenza di costi fra l'eterologa e l'omologa, che già è considerata nei LEA. Non è che le regioni si carichino di centinaia di milioni in più per questo. Primo, perché i costi sono, fare dal punto di vista dei costi eterologa omologa non ha costi molto diversi, c'è qualche analisi in più. Secondo, perché poi non sono centinaia di migliaia le persone che gli chiedono. Invece, riteniamo che si debba far prevalere su, diciamo, la certezza che questo siano nei LEA, cosa che peraltro il Ministro della Salute ha, diciamo, ci ha sempre detto e concordare, preferiamo però non perdere ulteriore tempo nel consentire ai cittadini e alle cittadine di riconoscere, di rendere esigibile un loro diritto. Ma appunto, Presidente Chiamparino, lei diceva che i costi più o meno sono uguali a quelli dell'omologa, perché la Lombardia invece si è tirata fuori da questo accordo? Credo per una ragione tutta politica, cioè nel senso che, diciamo, credo, non so, poi bisognerebbe chiederlo al mio collega Maroni, ma penso perché inserendola nei LEA la si considera per le donne in età considerate fertili, quindi io con una prestazione sanitaria come tante altre, e quindi si legittima politicamente la fecondazione eterologa, che invece probabilmente qualcuno ritiene non debba essere, non avere questa caratteristica, credo, non vedo altre spiegazioni. Quindi lei dice potrebbe essere questa ragione politica, pregiudizi culturali o questioni ideologiche? Una posizione politica, sì, diciamo di tipo ideologica, se vuole, per cui dato che si ritiene che sia una pratica eticamente discutibile, allora la si rende più difficile e più costosa, credo, non so, a meno che non si voglia semplicemente renderla più difficile la vita ai cittadini, ma non credo, perché conoscendo Maroni non credo sia animato da questo spirito. Chiamparino, per chiudere, Presidente, lo chiede a loro. Sì, lo chiederò, devo chiamare Maroni e chiederglielo come mai questa eccezione. Invece, se permette, visto che qui in collegamento, sull'articolo 18, il fatto che questa battaglia, questo confronto così acceso che si è stato in questi giorni, che è ripreso insomma dagli ultimi 10 anni che c'è, ma è ripreso con particolare fervore, ha sentito che ci sarebbe un'apertura da parte della minoranza di sinistra del PD, si può trovare, dicono, una mediazione. Che ne pensa di tutto questo dibattito? Ma guarda, io l'ho già espresso con qualche dichiarazione pubblica nei giorni, ma io penso questo, che ci sia la possibilità sicuramente di trovare un accordo, questo, e che la base possa essere data dal fatto che alcuni diritti, diciamo, individuali che attengono al carattere inalienabile che essi hanno, diritti religiosi, diritti al comportamento sessuale, se c'è un licenziamento che possa essere in qualche direttamente riconducibile a qualcosa del genere, deve scattare la reintegra. Quindi io farei una tipologia che dica queste cose. Quando il giudice constata che un licenziamento è direttamente riconducibile a discriminazione di tipo razziale, sessuale, religioso, politico, scatta la reintegra. In tutti gli altri casi si introduce un meccanismo di risarcimento economico, come prevede la riforma Renzi, sulla base della legge, della durata del servizio e con delle commissioni arbitrali, quindi non la magistratura che decide l'entità, eccetera. Ecco, io farei una cosa di questo tipo e credo che su questa base l'accordo non sia impossibile. Poi mi aggiungerei una data X, 1° dicembre 2015, quel che ritiene lei, perché gli assunti da quella data in poi si applica il nuovo regime, a quelli che erano già assunti prima e si mantengono le vecchie condizioni. Bene, è chiaro, grazie Presidente Chiamparino. La mia idea, dopodiché, ripeto, io penso che un accordo sia possibile e soprattutto sia necessario, anche perché l'articolo 18, diciamolo francamente, ormai è un simbolo, ha l'importanza che hanno tutti i simboli, ma i simboli dopo 44 anni bisogna anche ridefinirli, insomma, no? Perché se no invecchiamo noi insieme ai simboli. È una questione difficile quella dei simboli, staremo a vedere. Grazie Chiamparino, grazie ancora. Buonasera. Grazie, buona serata. E forse stava viaggiando anche il Presidente Chiamparino, quindi aggiorniamo anche lui con la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sto guardando i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma vi riassumo però velocemente le notizie perché devo andare su un altro fatto da approfondire. Sale l'allarme per quanto riguarda gli attentati dell'ISIS nel mirino e metro di Parigi e New York. Poi la minoranza del PD, ne abbiamo appena parlato con Chiamparino, apre al dialogo, dice che una sintesi potrebbe essere possibile. Intanto la CGIL va verso una manifestazione, forse il 25 ottobre. Napolitano sarà testimone al processo per la presunta trattativa Stato-mafia. E poi Renzi all'ONU, l'abbiamo sentito, che ha detto che l'Italia ha salvato con Mare Nostrum 80.000 vite nel Mediterraneo. L'eterologa costerà tra 400 e 600 euro, ne abbiamo appena parlato, in tutte le regioni tranne che nella Lombardia, dove si pagherà per intero. E poi la Cassazione che dice sì alla pena ridotta per stupro completo, possibile attenuante, ne abbiamo discusso. E adesso invece vorrei trattare uno dei temi principali di oggi. Appunto questo di Napolitano chiamato a fare da testa, testimoniare nel processo Stato-mafia, deporrà a questo processo, lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise di Palermo che indagano appunto sulla trattativa Stato-mafia, che hanno così accolto la richiesta avanzata dai PM nell'ultima udienza. E la trattativa Stato-mafia sarebbe la trattativa, così ipotizzano i magistrati, tra Stato italiano e Cosa Nostra, cioè una negoziazione tra lo Stato italiano e la mafia che si è sviluppata in seguito alla stagione degli attentati, ricordate, tra 92 e 93, per giungere questa trattativa a un accordo. Oggetto di questo accordo ipotizzato sarebbe stato la fine della stagione stragista in cambio di un'attenuazione delle misure detentive previste dall'articolo 41 bis, il carcere duro per i boss. L'ipotesi è oggetto di indagini giudiziarie, inchieste giornalistiche. Ma vorrei coinvolgere Marzio Breda. Ciao Marzio. Buona serata a voi. Inviato speciale quirinalista del Corriere della Sera, Marzio. Quindi la posizione di Napolitano, che è chiamato a testimoniare in particolare su una lettera di un suo consigliere giuridico che è morto nel 2012, Loris D'Ambrosio, no? Sì, la questione infatti è limitata a un passo di quella lettera, nella quale, che lettera che peraltro Napolitano stesso ha reso pubblica, facendola pubblicare appunto in un libro di interventi in materia di giustizia, è quella nella quale D'Ambrosio adombrava l'ipotesi di essere lui stesso considerato un inutile scriba di indicibili accordi. Ecco, c'è questa parola, questa espressione indicibili accordi che ha sollevato l'interesse della Corte d'Assise di Palermo. Ora, Napolitano, va ricordato, quasi un anno fa, il 31 ottobre 2013, aveva scritto una lettera ai giudici di Palermo spiegando, dando le sue risposte, dicendo: per il resto mi pare che io non posso fornirvi nessun elemento utile. A un anno di distanza, quasi un anno di distanza, i giudici di Palermo dicono: no, noi ti vogliamo sentire, o meglio anche alcune difese di alcuni imputati, eccetera. E Napolitano a questo punto accorda in linea teorica avrebbe potuto ancora sollevare opposizioni eccetera, ma a questo punto accorda di farsi sentire. Naturalmente non viene sentito in aula a Palermo, c'è anche in questo caso si apre un precedente che costituzionalmente avrà rilievo, perché ti volevo chiedere se è un primo caso è di questo tipo. Caso perché ci fu sia un caso analogo, parzialmente analogo, che riguardava Scalfaro, del quale fu chiesta la testimonianza ma poi fu il pubblico ministero a rinunciare, e analogo caso prima di lui era con Cossiga, la vicenda Gladio, e il giudice di allora, il pubblico ministero Casson, si accontentò di quello che Cossiga aveva detto in una audizione parlamentare. Stavolta invece la cosa avviene. Ora, i timori, il Quirinale ha il timore che questa vicenda, che è stata un tormento per Napolitano negli ultimi 3 anni e per la quale poi D'Ambrosio è morto, si può dire che è morto nel senso di crepacuore, tu dici? Sì, perché era sotto una pressione pesantissima, proprio perché era D'Ambrosio il destinatario di gran parte delle telefonate fatte dall'ex ministro dell'interno Mancino al Quirinale, e D'Ambrosio fu chiamato in causa molto pesantemente sia dai giornali che in sede politica. fu stroncato da questo. Insomma, questa è la lettura che ne hanno dato tutti, compreso Napolitano, diciamo, questa pressione violenta e continua. E comunque in questo caso la preoccupazione del capo dello Stato è perché questo non è un processo normale. Diciamo, alla sbarra ci sono grossi capomafia, da Riina in poi, ci sono uomini politici di grande peso nella storia della Prima Repubblica, ex ministri eccetera, e ci sono funzionari e dirigenti degli apparati di sicurezza dello Stato. Di conseguenza, anche se la testimonianza non ha nulla a che vedere, non sappiamo, lo hanno detto i giudici stessi, che quelle telefonate non avevano nulla di rilevante, eccetera, poi sono state distrutte, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che si presta questa cosa a una strumentalizzazione, questo è il timore del Quirinale, mediatica e anche politica. Questo è il punto, insomma, per cui il Presidente potrebbe avere, nonostante insomma così lo definiscano tranquillo, potrebbe avere qualche inquietudine, insomma, diciamo, in questo senso. Perché sono stati 3 anni di tormento su questa faccenda, perché va ricordato politicamente, basta pensare a quello che a suo tempo dissero da Di Pietro al Movimento 5 Stelle, eccetera, a tutto un certo fronte mediatico che lo ha incalzato pesantissimamente. Ecco, vedremo un po' quale sarà l'evoluzione e in che modo testimonierà Napolitano. Marzio Breda, intanto ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Prego, grazie a voi. Ciao Marzio. Bene, direi che abbiamo completato un po' la serata, poi sapete che ritorno tra pochissimo per ricordarvi ancora una volta, prima di salutarci, le notizie principali del giorno.